nel mezzo della profonda campagna fiamminga per suicidio. Ho perso il volo di ritorno a casa e dunque te ne rimarrai nella tua campagna, nella profonda campagna fiamminga, no, anzi spero di no, e anzi spero di rivederti presto, magari venerdì prossimo riusciamo a fare un coxo spaziale insieme. E nel frattempo questa è una puntata abbastanza slim, nel senso che è una puntata piuttosto leggera, abbiamo pochi contenuti ma buoni. C'è arrivata ieri una promotional copy di un pezzo che si intitola Lion in the Jungle, e questo è Ya Cure e fa parte di Reggae Sax Rhythm. Fammi vedere che cosa dice, apriamo il PDF del nostro Brushrooms Promotions che ci manda i comunicati stampa e gli MP3 di Reg. Dice Reggae Sax Rhythm è un nuovo album di il genere Reggae Dancehall. Il label è Reggae Vibes Music, per cui presumo che la musica sia decisamente reggae, e adesso ci ascoltiamo, l'ho già perso, l'ho detto prima, dove è andato? Ah, eccolo qua, Lion in the Jungle di Ya Cure. When you see the hypocrites, them attack, I just show them fear me, open to hear me, sing now and loud and clearly. Soldiers in your army, cure again. Come to give you more again. Yeah, don't give me a reason to want you down and seek you out. Don't think I'm sleeping, I'm wide awake, it's my time now. I see them all coming, hear their voice, smell their fear. I'll send them. Take my pride. I'm the lion in the jungle. You should know only sleep things lions life. They try. No matter what they do, can't take my crown. They try. Yes, I know they still can't bring me down. I'm the lion in the jungle. Do what I gotta do, protect my pride. I'm the lion in the jungle. You should know only sleep things lions life. They try. No matter what they do, can't take my crown. They try. Yes, I know they still can't bring me down. What gives them the feeling? They don't have to want to eat their food. I wasn't here sleeping, I put in my hard work, up in my due. I see them all going, let their voice smell their greed. I'll send them all. Take my pride. I'm the lion in the jungle. You should know let sleeping's lion's life. They try. No matter what they do, can't take my crown. They try. Yes, I know they still can't bring me down. I'm the lion in the jungle. Do what I gotta do, protect my pride. I'm the lion in the jungle. You should know let sleeping's lion's life. They try. No matter what they do, can't take my crown. They try. Yes, I know they still can't bring me down. Bring me down. Them can't bring me down. Selassie and soldiers stand up firm on the ground. Yeah, none of them can bring me down. Can't take me crown. Let me check. from uptown, I dunk down. No, nothing can take me crown, yeah. Take me crown, yeah, yeah. Yeah, yeah. Bene, la volta scorsa abbiamo parlato un pochino, abbiamo accennato dell'idea, del ruolo dell'artista e magari oggi ne parliamo un altro po' anche oggi. Non mi ricordo già più che cosa ci siamo detti la volta scorsa, ma sì, fondamentalmente il dramma dell'artista italiano, non solo dell'artista visivo, ma anche dell'artista, dell'attore di teatro, del regista di film, eccetera, è che effettivamente non ha un ruolo sistematico all'interno della società italiana, ovvero non viene interpellato quando ci sono questioni culturali da dibattere. Una delle ragioni di fondo di questa cosa presumo che sia che fondamentalmente non si dibattono tante questioni culturali in questo paese. Se penso ai talk show francesi, per esempio, spessissimo appunto abbiamo non solo l'uomo di spettacolo, ma anche l'uomo di cultura, lo scrittore, gli scrittori li abbiamo anche noi, anzi, spesso e volentieri il caro Fulvio Abate lo vediamo in qualche talk show abbastanza agghiacciante. Fare un cross e rialzare un attimo il livello culturale di questa televisione italiana. Però appunto, come alle volte abbiamo il filosofo, alle volte abbiamo spesso e volentieri abbiamo l'artista visivo. In Italia l'artista visivo sembra non avere parola. Credo che tanto sia anche colpa degli artisti visivi italiani, perché spessissimo si rifiutano di parlare del proprio lavoro. Questo significa non voler esporsi, naturalmente, il che è paradossale, perché se un artista non si espone nessuno lo vede, per cui è paradossale non volersi esporre visivamente ma non volersi esporre a parole. Nello stesso tempo credo che di base ci sia una certa insicurezza, ovvero la paura di dire delle castronate che poi magari vengono riprese sui social network, eccetera. Devo dire che alcuni miei colleghi, non faccio nomi e neanche cognomi, hanno avuto questa esperienza, nel senso che si sono espressi pubblicamente magari su qualche questione che rasentava il politico, che avevano a che fare col proprio lavoro e magari anche con la scelta politica di esporre il proprio lavoro o lavorare al fianco di eccetera, e naturalmente si sono trovati spesso e volentieri sia la critica che il pubblico addosso, per cui hanno deciso di non fiatare più. Non lo so, a me non mi interpella mai nessuno, sarà che non sono un artista abbastanza acclamato, ma me ne farò una ragione, che fare. Fossi figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi figo, indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Paola Folli! Fossi figo, starei chiuso alla finestra. Fossi figo, sarei il principe della dottoressa. Sarei il re dell'addominale, sarei il re della finestra, ammirerebbero i miei capelli. Sono finti, ma comunque sono molto belli. Quelli veri sono volati via col vento, e anche la foto sul documento non mi rassomiglia più. Capelli, capelli sono andati via e non torneranno mai. In piazza li rimpiazzo con un prodigio della tecnica, frutto di ricerca. ricerche, sperimentazioni che ci aiutano nel look. Fossi figo, guiderei una grande G fino in disco, attesissimo in zona V. Il mio nome sarebbe sempre incluso nella lista, non dico proprio il primo della lista, ma neanche l'ultimo degli stronzi. Grazie, grazie. Questi naturalmente erano Elio e le Storie Tese con Fossi Figo. Finalmente hanno smesso di cagare il cazzo anche loro, nel senso che vabbè, basta, hanno smesso e li salutiamo con tanto affetto naturalmente. E bene, questo è Coxo Spaziale, siamo alla 227esima puntata e niente, oggi non abbiamo assolutamente niente da dire. Fa caldo, ci sono le zanzare e basta. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. 30 scodelle di polenta, noi ci si scaraventa fando finta che dopo non si senta. Ho la pancia euforica perché qui si balla il liscio. Telecom Italia, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è strano. La risata, bisogna rifare. Sì, però prima vabbè, rifacciamo. Telecom Italia, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è strano. Ugo crede che per guidare di notte ci vogliono le ridotte. Le uova sono tutte rotte, ma in realtà questa canzone è un pretesto per far suonare rockabilly ancora un po'. sembra che, sembra che non vede niente, ma guarda il mio vestito rosso, vede che mi son pisciato addosso. Ugo, Ugo va pianoro, con in tasca della droga, un coltello e due tronchesi per far fessi piano resi. Ugo sulla Cadillac, con l'autista e la sirena, ma gli sparan sulla schiena prima di arrivare a Zena. Già finito? Ringraziamo anche Riccardo Lolli che ci allieta con appunto i suoi due minuti di Lolli. E vi ricordo anche che al giovedì a mezzanotte, se non sbaglio a mezzanotte, c'è sempre Uova, Soda e Noci, che è un programma musicale appunto con musica abbastanza dislocata e intermittente, per non dire offuscata dall'oscurità, di appunto a cura di Riccardo Lolli. Alle volte intervengo anch'io, in realtà ormai sarà un anno o due che non ho il tempo di mandargli un MP3 con una piccola presentazione, ma Riccardo se la cava benissimo da solo. E dicevamo, in questa settimana non è successo tanto. Ieri l'altro sono andato a vedere uno degli spettacoli che ha a che fare con la strage di Ustica, che come sapete dalla settimana scorsa ne parlavamo e c'è stato il 38esimo anniversario, e l'altra sera appunto sono andato a vedere uno degli spettacoli che avevo raccontato, e devo dire che mi è piaciuto molto. Io, da completo ignorantissimo per quel che riguarda il mondo del teatro, si intitolava Impossibile pensare che anche gli aerei volino, una roba del genere. Devo dire che è stato alle volte anche molto toccante, molto interessante. Questa settimana invece succede poco, adesso dopo guarderemo nell'angolo della menzione se ci sono altri spettacoli di questa serie, anzi forse anche sì. Sì certo, l'11, cioè mercoledì della settimana prossima, l'11 luglio, ci sarà Segno Sonico 02 La Scatola Nera, ma ne parliamo fra un po' quando ci sarà l'angolo della menzione. Invece ultimamente mi stanno arrivando questi fantastici email da Giancarlo Politi, che non che io e Giancarlo Politi siamo amici, anzi lui non mi conosce per niente, io lo conosco di fama, ma lui è stato è tuttora il direttore di Flash Art, che è la prima rivista d'arte contemporanea che c'è stata in Italia, nata alla fine degli anni 60, se non erro. È stata praticamente il punto di riferimento degli artisti italiani fino, diciamo, alla fine degli anni 90, primi anni 2000, quando altre testate, Exibart, poi successivamente Art Tribune, eccetera, Mus, Kaleidoscope, eccetera, hanno, diciamo, ampliato gli orizzonti del mondo della critica d'arte. Naturalmente c'è anche un'altra rivista che si chiama Segno, che anche quella ha una storia importante, però diciamo che Flash Art è sempre stata la numero uno in Italia. E ultimamente Politi sta scrivendo una serie di email chiamati Amarcord, e ogni settimana appunto racconta di qualche personaggio. Questa settimana è la volta di Guglielmo Achille Cavellini, che probabilmente non lo conoscete, o se lo conoscete perché siete veramente degli intenditori o degli amanti della mail art. Guglielmo Achille Cavellini era un uomo, un artista molto agiato, che appunto ha fatto cose abbastanza strampalate utilizzando il suo agio. L'articolo che stavo guardando si intitola appunto Guglielmo Achille Cavellini, l'uomo che mi cambiò la vita. E niente, vi mando il link perché magari avete voglia di leggervelo. Ci sono un po' di appunto un po' di storie di questo personaggio abbastanza stravagante che vagava nel mondo dell'arte negli anni 60, 70, 80, eccetera. Dice Politi, ma Cavellini era un uomo affabilissimo, colto e informato, ma soprattutto curioso. Volle sapere della situazione romana, dandomi appuntamento per uno studio visit prossimo, il che avvenne quasi subito. Mi scrisse una lettera chiedendomi di fissare appuntamenti con Cunellis, Pascali, Schifano. Cunellis ci ricevette a casa sua con la moglie dell'epoca, Efi, collaboratrice vestale dell'artista in quegli anni, a cui dedicava la vita malgrado fosse stata compagna di studi all'Accademia di Roma. Si diceva anche che Effi avesse rinunciato alla sua carriera di artista per assistere Cunellis, cosa che non mi meraviglia assolutamente. Cavallini voleva comprare alcune tele di Iannis, il quale in un primo tempo si negava, dicendo di non avere nulla. Ma quando poi vide un malloppo di fogli da 100.000 nelle mani di Cavallini, da sotto il letto Effi tirò fuori tre grandi tele di oltre 2 metri arrotolate, le famose tele con le frecce e lettere dell'alfabeto. Effi chiedeva 1 milione per ogni tela. A me sembrò una cifra da capogiro, per me che guadagnavo 50.000 lire al mese. Dopo lunghe discussioni e performance di Cavallini che saltava tra una tela e l'altra, si accordarono per 800.000 lire cada una. Cavallini arrotolò le tele, se le mise sotto braccio e uscimmo. Capii allora che era abituato a queste pantomime con gli artisti senza perdere tempo in spedizioni o altro. Le portò in albergo e le avrebbe condotte con sé nel vagone letto. Con Pino Pascali invece non andò bene. Pino aveva solo un cubo di terra di 1 metro per 1 metro, difficile per Cavallini da portare in vagone letto. Si accordarono per un altro incontro che poi sfumò per la morte di Pino. Lo studio di Mario Schifano era vuoto. C'era lui con i soliti jeans sporchi di colore e sdrucciti che tanto eccitavano le principesse di passaggio, ma delusero me e Cavallini, che non comperò nulla. Arrivederci Roma. To and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail, or to sue the operator for telling me a tale. Ah. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army clothes, army car. Ah. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Spaziale. Eccoci tornati alla 227esima puntata di Coxo Spaziale. Abbiamo letto prima qualche storia riguardante Guglielmo Achille Cavallini, che io appunto conoscevo come uno degli artisti fautori e promotori della mail art, e anzi ho anche una vaga. Adesso non mi ricordo se l'ho incontrato, perché lui, se non sbaglio, muore negli anni 90. Io ho paura che in un'arte fiera degli anni 80 di averlo incontrato, o se non l'ho incontrato, ho incontrato una pila di suoi grandi cataloghi, per cui ho tuttora un volume che parla di lui. Scrive ancora Giancarlo Politi in questo suo Amarcord su Cavellini: protagonista mondiale, la mail art o arte postale a quei tempi imperversava. Ogni artista o presunto tale si divertiva ad inviare ad amici e colleghi cartoline o buste diversamente elaborate, dipinte, scritte e sopra francobolli a gogo. Il movimento era stato fondato da Ray Johnson e la sua New York Correspondence School, anche se il marchigiano Ivo Pannaggi già nel 1920 aveva proposto molti collage postali di carattere futurista, bellissimi e scomparsi. Lui me li mostrò nel suo studio a Macerata, dove era appena tornato dalla Finlandia. Gack, Guglielmo Achille Cavellini, divenne subito un protagonista mondiale, perché ogni giorno portava in posta tonnellate di buste, pacchetti cartoline, e nessuno aveva la sua potenza di fuoco. Fu lui che a Brescia mi presentò il collezionista imprenditore Antonio Spada, che cambiò la mia vita. In quei mesi Brescia divenne una città calda per l'arte contemporanea. Con l'aiuto di un bravissimo e sensibile artista locale, Valentino Vini, Pio Monte, venuto al mio seguito, aprì una galleria a Brescia, Acme Arte Studio, dove ricordo presentò una bellissima mostra di Fabio Mauri, ma anche tutta la genealogia degli artisti cinetici, in premis Getulio Alviani, suo mentore e amico. Con Antonio Spada, a cui su richiesta davo qualche suggerimento, diventammo amici e mi propose di trasferire la redazione di Flash Art da Roma, ormai invivibile per me, a Brescia, in un suo spazio dove abitavo e lavoravo. Giorni bellissimi, anche perché spesso ero invitato a pranzo da Spada e mentre lui mangiava un filetto scondito io facevo il pieno per i giorni successivi. Passava spesso a trovarmi anche Massimo Minini, che allora era rappresentante di commercio e girava l'Europa cercando di piazzare alcuni prodotti delle aziende bresciane. E Massimo Minini naturalmente col tempo ha aperto la sua galleria ed è diventato ed è tuttora uno dei galleristi più importanti di italiani. Stavo leggendo Cavellini. Ah, ecco, muore nel 1990, scrive Politi, a 76 anni ci lasciò, credo anche per le sue frustrazioni e delusioni. Lui sempre così vitale, allegro, propositivo, con le sue BMW sempre nuove, e io mi rimprovero ancora oggi di non essergli stato vicino negli ultimi tempi. Preso e divorato dal lavoro e dal successo del lavoro di quegli anni, trascurai amici come Gack, a cui devo molto, forse anche una svolta nella mia vita. Ogni tanto mi chiedo, e se non avessi incontrato Achille Cavellini, Antonio Spada, Achille Mauri, Antonio Diaz, come sarebbe stata la mia vita? È una domanda a cui non posso dare risposta, ma in cuor mio ogni tanto penso a loro con commozione e riconoscenza. A Cavellini vorrei portare presto una rosa rossa, a lui piacerebbe, sulla sua tomba a Brescia. Ecco, io per esempio non lo sapevo che Cavellini era seppellito a Brescia. Se capito da quelle parti magari gli porto una rosa rossa anch'io, anche perché io sono un grande amante della mail art, che secondo me è una delle forme d'arte più democratiche in assoluto, e magari parleremo anche della mail art in qualche altra puntata di Coxo Spaziale. E comunque vi lascio il link per leggere gli Amarcord di Giancarlo Politi, il direttore di Flash Art, e il link è www.flashartonline.it category Amarcord, e naturalmente troverete questo link anche su www.coxospaziale.blogspot.com, che è naturalmente il sito dove potete anche riascoltare queste fantastiche o terribili puntate, pur che sia. singolo della menzione. Ed eccoci arrivati al nostro angolo della menzione, e questa settimana appunto ritorniamo al Museo della Memoria, per la memoria di Ustica, e andiamo a cliccare su programma. Il sito si chiama www.attornoalmuseo.it e l'11 luglio, come dicevamo prima, abbiamo il prossimo spettacolo, che è Segno Sonico 02, la scatola nera, performance di musica e di disegno, un progetto a cura di Billboard Bull Festival Internazionale di Fumetti, Bologna Jazz Festival, Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con il Liceo Artistico Arcangeli, il Liceo Musicale Lucio Dalla, il Conservatorio G.B. Martini, con la guida di Pasquale Mirra e Stefano Ricci. Ci sono un sacco di musicisti, riprese, regia, bla bla bla. Segno Sonico, svoltosi per la prima volta dal 13 al 19 novembre 2017, è un progetto basato sull'improvvisazione musicale e grafica, nel quale il musicista Pasquale Mirra e il disegnatore Stefano Ricci guidano un gruppo di musicisti del Conservatorio Martini di Bologna, del Liceo Musicale Lucio Dalla e un gruppo di disegnatori dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e del Liceo Artistico Arcangeli, costruendo un dialogo tra i due linguaggi, approfondendone dinamiche e potenzialità. I disegni vengono proiettati su uno schermo, così che tutti possano seguire la creazione in diretta. Il lavoro grafico e la musica improvvisata sono vicendevolmente ispirati l'un l'altro. La proposta è una sorta di prolungamento estivo dell'esperienza svolta lo scorso autunno e si svolgerà in due differenti momenti legati alla commemorazione della strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. Se mercoledì prossimo non avete niente di meglio da fare, io penso che ci andrò, anche perché là c'è un freschetto che nel Parco della Zucca c'è un freschetto che si sta veramente molto bene. Questo è l'11 luglio alle 21:30 al Parco della Zucca in via di Saliceto 3/22. E queste erano tutte le menzioni di questa settimana. Inaugura Giorgio Tommasi allo studio Nicola Ricci, ma questo è a Carrara, per cui diciamo che è un po' lontano per noi, che invece ci troviamo nella calda Bologna per il momento. Bene, continuiamo con un po' di musica. I like things, I'm happy, liking things, yeah. Questa era I Like Things di Martin Creed. Martin Creed è un artista britannico, un artista visivo che canta e suona anche. Lui si autodefinisce un espressionista, riferendo sulla nozione che tutta l'arte viene dai nostri sentimenti. Lui ha vinto il Turner Prize nel 2001 con un'opera che si intitolava Work Number 227. Ah, che guarda, è anche il numero del nostro lavoro numero 227, che è perfetto per la 227esima puntata di Coxo Spaziale. Il titolo era The Lights Going On and Off, che era esattamente questa cosa qua, erano luci che si accendevano e si spegnevano, e con questo lui ha vinto il Turner Prize. Il suo lavoro è sempre molto molto ironico, devo dire che io alcune cose sue le adoro totalmente. E dice lui: anything is art that is used by as art by people. L'arte è qualunque cosa che è usata come arte dalla gente. che effettivamente è un bel andare, nel senso che questo rende potenzialmente artista chiunque, ed è anche per questo che un suo lavoro appunto può essere fatto semplicemente accartocciando un foglio di carta A4. Infatti uno dei suoi lavori, anzi, era esposto qualche anno fa in una galleria qui di Bologna, era appunto un foglio A4 accartocciato, e si chiamava tipo lavoro numero 238, foglio A4 accartocciato. Il bello di questa idea è proprio quella che chiunque può essere un artista, e alcuni avranno magari qualcosa da dire rispetto a questo, ma io, che invece lavoro nell'ambito dell'arte da ben, meglio non dirlo, 30 anni ormai, ritengo che questa sia una delle possibili, uno dei possibili futuri del contemporaneo, uno dei possibili futuri dell'arte. I'm Questi invece erano una giovane band torinese chiamata LPL o LPL, chi lo sa. Il pezzo si intitolava Kit Kat. E anzi, continuo a mandare gli inviti a tutti: se fate musica, preferibilmente strana e alternativa, eccetera, ma va bene anche se fate musica, che ne so, se siete i nuovi tre tenorini e volete essere featured a Coxo Spaziale, mandateci un mp3 per email a coxospaziale@gmail.com. E ahimè, anche stavolta il tempo è finito, l'ora è passata. Non ho capito come mai quando si fa la radio il tempo vola, che è una cosa tremenda. Non invidio alcuni miei colleghi anche di Radio Città Fujiko che fanno radio 4 ore al giorno, perché effettivamente se va via che un'ora sembrano 5 minuti, 4 ore sembreranno 20 minuti, insomma alla fine è un attimo che ti ritrovi vecchio e decrepito. Bene, questo era Coxo Spaziale, questa era la 227esima puntata, questo come al solito era senza la nostra cara Fedra Boscaro, ma questo era Stefano W. Pasquini che vi saluta e vi lascia come al solito con le parole del nostro caro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. A risentirci venerdì prossimo 13 luglio. Ciao. We got that fire running so wild. I know, I know. You're my all-nighter, lover and fighter. I know. You know I've got a few red flags. I know you see. With you.